Questa Gnot Benedete di Stelis è un moderno canto natalizio musicato da Oreste Rosso su parole di Sante Tracogna. Lo canta il coro di Maiano. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari.